Ci addentriamo nel cuore della stagione estiva. Pare che adesso ci sia un'altra nuova ondata di calore che verrà, però noi non ci facciamo impaurire da nulla e ci riuniamo costantemente attorno alla parola di Dio. Amen? Amen. Amen. Ah, ok. Leggevo un po' di dubbio a riguardo. La stagione estiva, non so per voi che stagione è, però per me è la stagione anche dello smarrimento. Io sono uno che smarrisce le cose costantemente, ma in modo particolare nel periodo estivo. Non lo so perché, ma nel periodo estivo smarrisco più facilmente oggetti. C'è qualcun altro che è un smarritore seriale come me? C'è qualcuno che vuole confessare questa cosa? Smarritori seriali, le chiavi si smarriscono e le cerchi e incolpi tutto il mondo, in modo particolare tua moglie, perché è lei che cambia i posti, perché è lei che è la causa dello smarrimento dei tuoi oggetti, per poi renderti conto che è nella tasca del tuo pantalone che tu hai scelto di lasciare le chiavi lì ed è colpa tua che non le trovavi. Oppure smarrire gli occhiali. Ieri eravamo al rifugio, Aldo ha visto questi occhiali da soli in officina, ha detto: pastore, di chi sono questi occhiali? Ho detto: sono miei, li cercavo da 3 giorni, grazie che li hai trovati, e adesso sono di nuovo a casa, ma so che li smarrirò di nuovo. E non so voi, ma io smarrisco tutto, ho smarrito la fede, mi ha portato in ginocchio, veramente in ginocchio in preghiera, proprio perché non era possibile che dopo pochi anni di matrimonio già perdessi la mia fede. Quindi ho pregato, veramente io ho avuto un miracolo. Se volete poi vi racconto questa storia, ma è stato un miracolo, perché io credo veramente di averla smarrita, in questo caso totalmente. Il Signore l'ha presa e l'ha rimessa nel mio comodino, perché nel comodino abbiamo visto svariate volte, l'abbiamo rivoltato come un calzino e non c'era. Dio ci permette di ritrovare cose. Amen. E ricordo qualche anno fa che ero in questo negozio, stavo selezionando una camicia e dopo aver scelto diversi capi, averli provati, stavo per uscire come faccio di solito dal negozio a mani vuote, perché io provo le cose e poi me ne vado perché non mi convince nulla. E però a quel punto, fuori dal negozio, mi rendo conto che non avevo con me il cellulare. Allora rientro nel negozio, faccia impanicata, occhi smarriti, probabilmente avevo proprio un pallore visibile, perché toccavo le tasche continuamente con la speranza che riapparisse il cellulare in tasca e guardavo ovunque, non sapevo dove cercare e già davo per perduto il mio cellulare. Ma la commessa ha visto tutto il movimento, mi ha visto uscire, ha notato il cellulare nel camerino, mi ha visto rientrare, ha visto la mia faccia smarrita e si è data, diciamo, del tempo, non so, forse per gusto di divertirsi a vedermi smarrito o forse per riconoscere se fosse veramente mio il cellulare, mi ha guardato con un sorriso e ha detto: guarda che è nel camerino. E io l'ho guardato, ho ringraziato, sono andato nel camerino e lì c'era il mio cellulare. Però io voglio parlare di cose che si smarriscono e si ritrovano, e credo che il verso che andremo a leggere insieme lo conosciamo tutti bene, perché riguarda la storia di Zaccheo. E Gesù incontra Zaccheo. È inutile che vi racconto questa storia perché la conoscete benissimo, sentita e risentita, però Gesù incontra quest'uomo che era un mafioso dell'epoca, che era un imbroglione, che era non solo un ladro di suo, ma era uno che organizzava ladri, organizzava la criminalità, era una criminalità organizzata da lui, di altri esattori, di altri ladri che trattenevano parte delle tasse che ricevevano dai giudei. E quindi quest'uomo Zaccheo, nella sua condizione di peccato, di essere lontano da tutto e da tutti, perché poi era così imbroglione che era anche probabilmente molto lasciato a sé, scansato dalle persone, è visto da Gesù. Gesù lo vede, Gesù nota quest'uomo e si autoinvita a casa sua, il che è meraviglioso. Cena a casa sua e non sappiamo esattamente che conversazione ci sia stata in quella cena, che cosa Gesù abbia detto a quest'uomo, ma una cosa sappiamo per certo: che da essere un ladro, un imbroglione, un mafioso dell'epoca, si ravvede perché incontra Cristo Gesù, e Gesù dice questo in Luca 19:10: il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo è venuto, il figlio dell'uomo è venuto. Chi è il figlio dell'uomo? Gesù. Gesù attribuisce a se stesso questo titolo svariate volte, molte volte, forse è uno dei titoli che più si attribuisce. È un modo per lui di dire: io sono uno fra di voi, io sono umano, io sono figlio dell'uomo, nel senso che sono 100% uomo. Ma questo titolo che si attribuisce a Gesù parla della sua umiltà. Perché poteva presentarsi come il re dell'universo, il creatore di ogni cosa, colui che ha dominio e potere, e invece si presenta alle persone dicendo: il figlio dell'uomo, io sono umile perché sono uomo, mi sono fatto uomo, mi sono incarnato. E poi dice: il figlio dell'uomo è venuto. È venuto, quindi in questa frase Gesù già dice tutto della sua natura. È 100% uomo ed è 100% Dio, perché è venuto. Gesù non è nato, è nato per venire. Mi seguite? Lui non è nato e non è entrato in esistenza all'atto della nascita. Lui è venuto, era già prima che nascesse, era già presente, era da eternità passate ed è venuto attraverso la nascita, si è fatto uomo ed è stato in mezzo a noi. E quindi in queste due in questa sua presentazione ci presenta tutta la sua umanità e tutta la sua deità. Ma ascoltate ora cosa dice: il figlio dell'uomo è venuto per cercare, Gesù è venuto per cercare e trovare e salvare ciò che era perduto. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E di chi sta parlando? Sta parlando di Zaccheo, ma non sta parlando solo di Zaccheo, sta parlando di me e di te. Il tuo titolo, se il titolo di Gesù è figlio dell'uomo, il tuo titolo, il mio titolo è perduto. Perduto, tu eri perduto, forse mi stai ascoltando e sei ancora perduto, perduto perché Gesù non ha avuto modo di afferrare ancora la tua vita, ma se il Signore ha afferrato la tua vita e nel cercare ti ha trovato, tu non sei più perduto, o meglio sei un perduto ritrovato. Noi siamo dei perduti ricercati. Wanted, dead or alive si dice, no? Tu su di te c'era una taglia, tu eri ricercato, tu sei ricercato, ma non nel senso negativo del termine, no? I ricercati chi sono? Sono quelli che hanno delle colpe e vengono ricercati perché devono pagare delle colpe che hanno commesso. E quindi noi abbiamo delle colpe, ma Gesù, sebbene avrebbe potuto e avrebbe dovuto cercarci per incolparci, avrebbe dovuto cercarci per ammazzarci, per castigarci, per giudicarci, lui è venuto per cercarci e salvarci. Noi siamo delle persone che sono ricercate da un Dio misericordioso che non vuole punire, giudicare, ma vuole salvare. Amen. E quindi noi eravamo perduti, siamo stati trovati, perché eravamo ricercati per essere salvati. E Gesù ci ha trovati e ci ha salvati. Quindi io vorrei che tu leggessi con me, che tutti noi potessimo leggere queste parole di Luca 15, di queste due storie che conosciamo molto bene, però che ci permettono di ritrovare anche l'identità nostra e anche la missione di Cristo. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Tutti i pubblicani, i ladri, gli imbroglioni e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Antonio, la scorsa domenica, in una delle cose che ha detto, ha detto che Gesù è attraente. E vedete com'è attraente qui. Attira chi? attira non le persone per bene, non i giusti, non i santi, non le persone che sono altolocate, attira i peccatori, ma proprio perché voleva attirare loro. E questo la dice lunga su quello che anche noi dobbiamo fare, perché nel vedere la vita di Gesù dobbiamo cercare anche il nostro orientamento di vita. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Lui era approcciabile. I peccatori, i pubblicani non si sentivano giudicati, altrimenti si sarebbero allontanati da lui. Si sentivano accolti. E io vorrei che tu questa mattina possa sentirti accolto da un Gesù che è misericordioso, che non ti respinge, che non ti rigetta, ma ti cerca e ti accoglie e ti attira a sé. Ma i farisei, i religiosi, e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Assurdo. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta? Vedete, torna il titolo che ci viene attribuito, perduta, finché non la ritrova. E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, è giunto a casa che ama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Pensate il cuore che sta trasmettendo Gesù con queste parole, sta dicendo: Dio ti vede così. Dio è entusiasta di averti trovato, Dio è entusiasta di averti cercato e trovato e fa festa, dice, rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora, tu sei di Dio, tu appartieni a Dio, la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Una seconda storia. Oppure qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Questa è mia moglie quando ho perso l'anello. Questa è mia moglie quando ho perso l'anello, l'ho detto a mia moglie: dobbiamo ritrovare questo anello. Lei è disperata come me, cerchia, spaziamo, accendiamo tutte le luci, andiamo in ogni angolo della casa e abbiamo pulito, spazzato, lavato, controllato anche nell'aspirapolvere, fosse stato risucchiato dall'aspirapolvere, perché quando perdi qualcosa che è prezioso, tu la cerchi con attenzione. E quando noi leggiamo che Dio ci cerca con tutta questa attenzione, come una donna che ha perso qualcosa di valore, noi dobbiamo comprendere che Gesù sta dicendo: tu sei prezioso agli occhi di Dio. Tu vali la ricerca che Dio ha fatto e sta facendo. Perché? Perché tu vali. Agli occhi di Dio tu vali. Tu sei prezioso. Tu sei preziosa. Non è bellissimo quello che Gesù sta trasmettendo in queste storie? Dice: spazza casa e non cerca con cura, cerca con cura finché non la ritrova. Quando l'ha trovata chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. La prima storia che abbiamo letto ci parla di un pastore che smarrisce una pecora e la va a cercare. E dà priorità, è una storia che ci parla della priorità. Per il pastore il perduto ha priorità. Per il pastore un perduto ha priorità su 99 trovati. In questo momento per il Signore ha priorità la tua vita, il tuo vissuto, tutto quello che stai vivendo, ma è a cuore a Dio ogni persona perduta del tuo nucleo familiare, ogni persona perduta nel tuo condominio, ogni persona che tu incroci per strada, per lui è preziosa, ha valore, lui la sta cercando e ha priorità. La seconda storia della donna invece ci parla del valore, come ho detto, del valore che le persone, che il singolo individuo ha agli occhi di Dio. A volte proprio perché ci riuniamo e siamo tanti, no? Siamo centinaia di persone che si riuniscono. Possiamo cadere nell'errore che Dio è interessato alle folle, ai numeri, alle quantità, come se fossero numeri che non riguardano singole vite, singoli individui, singole storie. Ma queste storie che Gesù sta raccontando mettono l'enfasi sull'uno, sul Zaccheo, nome, un nome, un'abitazione, una cena, un appuntamento specifico per salvare una persona, il salvatore dell'universo, Dio, sarebbe potuto venire qui su questa terra e montare un megafono che sarebbe arrivato in ogni angolo della terra, se così si può dire, e avrebbe potuto predicare dalle montagne più alte, alle folle, alle persone, rimanere in questa posizione dove era interessato ai numeri, alle folle, ma Gesù ci dà un esempio concreto, e non lo fa solo con Zaccheo, lo fa con tante altre persone, nomi che noi troviamo nei Vangeli. E perché? Perché dice: io sono il Dio dell'universo che però è interessato alla singola persona. E se tu pensi che Dio non è interessato a te, stai credendo a una bugia del diavolo. Se tu pensi che Dio è interessato al numero, alle masse, alle folle, non alla tua vita personale, stai sbagliando Dio. Dio non è così. Lui ti vede, lui ti conosce per nome, lui vuole cenare con te. In Apocalisse c'è scritto che io sono la porta e busso. È Gesù che parla. A chi apre io entrerò e cenerò con lui. Lui, colui che apre la porta del proprio cuore. E allora questa mattina il mio invito è: apri la porta del tuo cuore al Salvatore che vuole entrare e sta bussando. Dopo queste due storie, la storia del pastore e la storia della donna che cerca la dramma perduta, c'è una terza storia che non vado a leggere ma che conosciamo molto bene, la storia del figlio il prodigo. E qui noi leggiamo il cuore di un padre che non si stanca di attendere il proprio figlio. E non alimenta rancore nel tempo che passa, non alimenta insopportazione, non comincia a scrivere una lista delle cose negative che il figlio ha fatto. Ogni giorno che passava era un punto di lista in più che avrebbe potuto scriversi. Invece il padre attende con pazienza e con il desiderio bramante di vedere spuntare il proprio figlio all'orizzonte, per fare cosa? Per corrergli incontro, abbracciarlo, baciarlo, e c'è scritto, e ribaciarlo, e riaccoglierlo a casa, e fare festa. E quindi la prima storia, il del pastore, ci parla della priorità che il singolo ha. La seconda storia, quella della dramma perduta, ci parla di quanto siamo preziosi. La terza storia ci parla della passione di un padre verso i propri figli. E tu hai un padre, tu non sei orfano, puoi rimanere nella condizione di orfano oppure puoi scegliere di appartenere al padre. E qui è la tua scelta. E stamattina io ho due inviti in due direzioni diverse. Il primo è quello di farti trovare da un Cristo che ti sta cercando, il secondo è: abbraccia la missione che Dio ti sta affidando. Questo è un tempo strategico, Chiesa, l'ho già detto, e questo messaggio non viene a caso l'ultima domenica di luglio. Abbiamo un mese davanti, un mese straordinario, un mese dove tu vivrai delle ferie, dove tu vivrai delle vacanze, dove tu forse già stai andando a mare e stai avendo quella che è un'opportunità unica nel periodo estivo che noi abbiamo, cioè quello di incontrare tanta gente. Perché nel periodo estivo si esce. Perché nel periodo estivo si incontrano persone, perché nel periodo estivo si va in spiaggia, perché nel periodo estivo hai l'opportunità di agganciare nuove conoscenze, nuove amicizie, e hai l'opportunità di parlare con persone che sono rilassate perché magari non stanno lavorando in questo periodo, hanno del tempo da dedicare. E allora cosa faremo della missione che vediamo che Gesù con tanta intenzionalità porta avanti? La porteremo avanti perché... ricordati, se tu sei stato trovato è perché qualcuno ti ha trasmesso l'amore di Cristo. Non fermare l'effetto a catena che Dio ha stabilito. Perché Gesù ha salvato Zaccheo e Zaccheo ne ha salvati altri. Gesù ha salvato i dodici e i dodici hanno salvato altri. E questa storia va avanti da secoli e da millenni. E se tu sei qui oggi è perché fai parte di una catena, un effetto domino di amore, di evangelizzazione e di annuncio della parola di Dio. E allora non bloccare questo percorso, perché il Signore ti affida il messaggio di salvezza per annunciarlo ad altri. E questo, torno a ripetere, è una stagione strategica per farlo. Io voglio che tutti noi possiamo prestare attenzione a una storia, a una testimonianza, e voglio invitare Dario e Gabriella qui avanti. È una coppia speciale della nostra Chiesa. Sono alleati per la santità, sono alleati per la missione che Cristo ha per loro. E quindi io voglio dare parola subito a Gabriella, perché lei non vuole avere parola, e voglio che lei presenta un po' il preambolo di questa testimonianza, il fatto che avete partecipato all'Uno in Più, e quello che avete vissuto anche, se vogliamo accomodarci possiamo anche accomodarci, stiamo comodi, facciamo questa conversazione e poi passo a te la parola, così continui la storia, va bene? Inizio dalla fine allora. Dio è buono con noi. Siamo state in vacanza 2 settimane, noi siamo amanti della Grecia per chi ancora non lo sapesse, siamo molto amanti di questa nazione. E sono 4 anni che andiamo lì, ogni anno come bravi credenti preghiamo però prima di andare. Quest'anno è stato speciale perché la prima mattina quando ci siamo svegliati in un posto meraviglioso, la bellezza era incredibile, era accecante, però nel nostro cuore sorgeva un'urgenza, ci siamo guardati, abbiamo messo un canto di lode, io e Dario, abbiamo iniziato a lodare Dio perché sentivamo un peso forte e nonostante la bellezza di tutto quello che era intorno, quindi volevamo scoprirla, a un certo punto lo Spirito Santo ha messo un peso per noi, abbiamo iniziato a pregare così, abbiamo detto: Signore, se in questa vacanza, in quest'isola, c'è qualcuno che ti sta cercando, noi siamo qui. Vi voglio dire che è stato così, perché da quel giorno in poi sono stati quei 14 giorni di incontri, 14 giorni di cose speciali. Dio ci ha guidato in ogni posto dove andavamo, noi incontravamo una coppia, sempre la stessa coppia. Era un continuo, ma non andavamo in posti semplici da raggiungere, erano difficili, isolati, abbiamo rischiato ogni tanto, no, questo sarà una storia a parte, ogni tanto abbiamo rischiato la vita, però Dio è buono, Dio è veramente buono. E incontravamo sempre la stessa coppia e poi abbiamo cambiato isola e quindi siamo andati in un'altra isola, abbiamo fatto la stessa preghiera, siamo stati nell'isola di Patmos, dove San Giovanni ha ricevuto l'Apocalisse. E anche lì, poi Dario magari vi entra nel dettaglio, ogni volta Dio ci metteva davanti persone. E non posso dimenticare una frase, sempre poi incontravamo sempre gli stessi posti, potevamo essere lontani chilometri, ma noi eravamo sempre quelle persone che loro incontravano, gli stalker. E una frase mi ha colpito molto di una coppia. Lui ha detto: io sono ricco, sono molto ricco, ho fatto soldi, ma io ho un problema con la mia anima. E poi incontro voi due. Ma non eravamo noi due, era quello che Dio aveva messo in noi. C'è una fame di Cristo, noi non ce ne rendiamo conto davvero. C'è una fame di conoscere Gesù e tu ce l'hai Gesù. Tu hai sei la risposta a quella fame. E per ultimo, se no poi io sono chiacchierona, Mirko, non mi dovevi dare il microfono. Per ultimo, alla fine di tutta questa vacanza, la mattina mi sono svegliata, ero pensierosa, dicevo: Signore, cosa è successo? Qual è la differenza? Siamo venuti sempre in Grecia, quest'anno c'era qualcosa di speciale, mio marito aveva il miele addosso, letteralmente, cioè mio marito proprio aveva il miele, mio marito è speciale, chiudo parentesi. E lo Spirito Santo mi ha detto: scusami Gabriella, ma non avete pregato per questo? Ma non avete digiunato per questo? Ma non avete fatto quel gruppo in cui pregavate? Dio, questa è la risposta alla mia preghiera. E condivido per ultimo un verso della scrittura che dice: io vi ho costituiti, si trova in Giovanni 15, affinché portiate frutto, il vostro frutto rimanga, e qualsiasi cosa chiederete al Padre, egli ve lo darà. E in realtà è legato alla richiesta di anime. Gesù è assetato. esitato di anime, veramente c'è una, come Mirko diceva, c'è una ricerca spasmodica che Dio ha per l'essere umano, e tu puoi essere la risposta. Dio ti benedica. È stato qualcosa di speciale, in tanti anni di conversione non era mai accaduto, ci rendiamo conto che è accaduto perché c'era stata una preparazione prima, noi ci siamo iscritti io in maniera indiretta, lei in maniera diretta partecipando al laboratorio 1 più lab, proprio perché avevamo desiderio di essere più efficaci nell'evangelizzazione, non solo di scalfire con una parola, ma proprio di portare a Cristo. E cercare è una parola che, con cui hai iniziato e hai ripetuto più volte in questa predica. Quella è stata la nostra preghiera. Se qualcuno ti sta cercando, ok, noi siamo qui. Da quel momento è successo qualcosa, appunto, che non era mai accaduto prima, qualcosa di incredibile, perché, come diceva Gabriella, abbiamo trovato questa coppia in ogni anfratto. Abbiamo scelto questo posto proprio perché era isolato, so che ti piacciono anche queste situazioni, isolato, con percorsi sterrati, difficilissimo, per chilometri non incontravi nessuno, ma chi incontravi sempre loro. Alla fine loro ci hanno fatto sedere al tavolo, perché ci siamo incontrati, guarda caso, anche a cena, e ci hanno detto: non è un caso, adesso voi ci dovete dire qualcosa. E abbiamo potuto condividere il Vangelo in un trasporto da un'isola all'altra, di notte ero sul ponte di questa imbarcazione, me la stavo godendo, il vento, le stelle, proprio l'isolamento più assoluto. A un certo punto, e tutti stranieri, mi sento parlare in italiano, una persona che mi parla all'orecchio e comincia a raccontarmi la sua vita, mi prende il braccio e aveva un'urgenza di raccontarmi la sua vita. E siamo stati diverso tempo a parlare, tanto che lei diceva: ma che voleva da te? E che ne so, è venuto, mi ha cominciato a raccontare della sua vita. Sbarchiamo su quest'altra isola e poi un episodio che lei non ha detto, ma è stato molto bello, è stato essere su questa rocca dove l'Apostolo Giovanni, sappiamo dalla Bibbia che era lì proprio 2000 anni fa, lì ha ricevuto il libro della Rivelazione, quindi il libro in cui sono descritti gli ultimi tempi, ed era molto emozionante vedere quello che lui vedeva, essere proprio in quel posto. E c'erano dei ragazzi, credo un italiano, un francese, un inglese, sembra una barzelletta ma è così, erano di tre nazionalità che... quel posto, insomma, ti mette un po' di soggezione, perché poi ci hanno costruito sopra, e leggevano la storia di Giovanni, è un po' come l'episodio degli Atti degli Apostoli, si chiedevano in inglese: ma che cosa vuol dire questo episodio? E lì è partita Gabriella a razzo, stavamo per fare una foto, ma lì è partita e ha cominciato in inglese a dire: te lo spiego io che cos'è la vita dell'Apostolo Giovanni, perché l'Apostolo Giovanni è stato preso e buttato qui in un'isola completamente sperduta, e ha potuto parlare, annunciare il Vangelo, e ha potuto pregare con loro, e loro tre erano scioccati, eravamo tra i pope ortodossi, eppure riuscivamo ad annunciare il Vangelo. E un'ultima cosa, è stato veramente per noi un onore pensare che 2000 anni fa questo apostolo anziano, curvo, ce lo immaginiamo, aveva più di 90 anni, era lì che annunciava il Vangelo, e abbiamo avuto l'onore nella nostra piccolezza di essere lì dopo 2000 anni ancora annunciare lo stesso Vangelo, che ha una forza incredibile anche se noi siamo deboli. E questo è un invito per raccordarmi a quello che dicevi, pastore, a dire: Signore, in queste vacanze noi siamo a tua disposizione. Poi ho pensato: Signore, sei la nostra chiamata. Andiamo in Grecia, no? Andiamo sempre, va bene, siamo disponibili. Scherzo. No, io no. Avete anche i colori della Grecia. Una domanda che vi farei è: cosa si vive, perché poi lo sappiamo un po' tutti, però è bello ricordarcelo, cosa si vive nel trasmettere l'Evangelo? cioè perché a volte sembra essere sempre solo un dare, sempre fare qualcosa che arricchisce l'altro, però accade qualcosa che è soprannaturale nella vita del credente quando ci si addentra nell'evangelizzare con franchezza, andare oltre le barriere della timidezza, le barriere dell'imbarazzo, le barriere anche spirituali, no? L'opposizione spirituale che vuole frenare la nostra bocca dal condividere Cristo. Chi vuole? Eravamo per risponderti, mi viene in mente questa cosa. L'ultima sera, mentre passeggiavamo, dicevo a Gabriella: sì, tutto bello, ma ho dentro di me una tristezza, perché a quel ragazzo che mi aveva fermato sulla nave non sono riuscito a dire tutto, sarà il vento, sarà... E ho detto, bah, me ne vado via con questa tristezza, sì, bello tutto, bello il mangiare, bello, però dentro c'era, appena finito di dire questa cosa a Gabriella, ci sentiamo chiamare, era lui, tra tanta gente, e lì c'è stata una gioia incredibile, perché ho detto, adesso non mi scappi, qui ti devo mettere, quello che ho dentro te lo devo dire, e ci ha presentato un altro ragazzo, e poi è andata avanti la serata. Ecco, se dovessi dirlo con un'emozione, era gioia, una gioia che in altre vacanze non abbiamo mai provato. Era tutto veramente bellissimo, la Grecia è meravigliosa, ma niente è paragonabile alla bellezza di vedere un'anima che conosce Gesù. Cioè, era questa la nostra emozione. Non ci siamo raccontati com'era buono l'agnello, non ci siamo raccontati com'era bello il mare, ci siamo raccontati a fine vacanza quello che Dio aveva fatto. Non ha proprio paragone, è imparagonabile. Dare Gesù, trasmettere la fede, ha molto più valore di quello che pensi. E quello che avevamo come combattimento è stato molto forte, Mirko, perché non abbiamo detto che prima di partire c'è stato molto combattimento spirituale. Io e lui non ci eravamo parlati, la mattina siamo partiti prestissimo, la notte non abbiamo dormito, eravamo molto molto oppressi, abbiamo pregato tutta la notte, e quindi è come se il nemico in qualche modo ha l'intuizione quando due cristiani iniziano a muoversi: non ti preoccupare, non ti fermare, vai oltre, perché Dio ha già tracciato la strada e lui ti metterà le persone, non ti fare spaventare, perché il nemico ha veramente poco tempo. E la gioia di condividere il Vangelo va ben oltre, e sii franco, non avere paura, non avere paura di dire la verità, perché spesso questo ci blocca, l'aver paura di essere schietti. Vi racconto solo questo, che non c'entra con la vacanza, ma l'altro ieri sono stata a un matrimonio e la mia collega mi ha chiesto di condividere la parola a un rischio. E sono andata lì con la consapevolezza che sarei stata veramente schietta. Ho predicato la parola di Dio, ho letto un salmo. E la cosa meravigliosa è stato il ritorno, e mi ha fatto sorridere, qualcuno ha detto la genialata del Salmo 23, e capisco come il mondo, a noi sembra che non è interessato, invece considera la parola di Dio una genialata, considera di Dio qualcosa di superiore, di geniale. Annunciamo la parola, perché avremo un grandissimo ritorno, magari non immediato, Dio sa, annuncia. Non ti stancare. Amen. Grazie ragazzi, grazie. Vogliamo alzarci. Quello che vorrei fare prima di tutto con voi è, sapete, il Signore è interessato a, come ho detto e come è riscontrabile, no, nella parola più volte, alle singole persone. E noi non conosciamo le loro storie, non conosciamo i loro nomi, ma Dio sì. E quindi... noi vogliamo supportare, anche perché la missione che svolgiamo non è mai individuale, è una missione che svolgiamo in unità. Il Signore vuole che noi svolgiamo questa missione in unità. La condivisione anche di Dario e Gabriella non è solo per leggere insieme una testimonianza bellissima, ascoltare una bella testimonianza, ma per unirci, perché è un combattimento nostro. Allora io vorrei che insieme potessimo alzare la nostra voce per pregare per queste persone. Queste persone che hanno avuto il seme dell'Evangelo, non sappiamo dove sono, il ritorno alle loro nazioni, non sappiamo con quali altri mezzi e altre strategie il Signore vorrà cercarli per trovarli e salvarli, ma l'intento di Dio è chiaro per queste persone e quindi noi vogliamo alzare la nostra voce in preghiera per il tedesco, il francese, l'inglese e per il ragazzo italiano, per questa coppia. Vogliamo pregare e nominare queste persone in preghiera e vogliamo farlo anche per tutte le persone che il Signore ci darà grazia di incrociare in queste settimane che ci stanno dinanzi. Va bene? Alziamo le nostre voci e preghiamo. Amen. Grazie Gesù. Vorrei leggere con voi un altro paio di versi, potete rimanere in piedi, e vorrei chiedere a Sara di proiettarlo. Romani 10:14. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Il prossimo passo è stato anche nominato la scorsa domenica. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. E con queste parole io vorrei concludere, perché Dio sta cercando e la strategia che Dio adotta per cercare siamo noi. Lui ha scelto noi. E il modo per cercare e trovare è attraverso l'annunciare. Dio ha scelto che l'annuncio sia il mezzo per la salvezza. Quindi il fine del cercare, del suo cercare, è la riconciliazione. E il mezzo della riconciliazione è l'annuncio. Noi siamo chiamati ad annunciare per riconciliare, annunciare alle persone che c'è un Dio che li sta cercando, annunciare alle persone che sono perdute, annunciare alle persone che lo smarrimento che loro, nel quale loro si sono abituati a vivere e sono assopiti da questo modo di vivere, non è la condizione alla quale sono chiamati, non è la condizione migliore. Loro non devono rimanere perduti, loro hanno un padre, loro hanno un pastore, loro hanno un qualcuno che li sta cercando con desiderio. E quindi noi dobbiamo annunciare, annunciare, il mezzo per annunciare efficacemente è la preghiera e il mettersi intenzionalmente in condizione di farlo. Prega, prega, avete sentito anche nella testimonianza, Dario, Gabriella, tutto è partito dalla preghiera, dal digiuno. Prega, prega, perché non sei sufficiente a te stesso e Dio non vuole neanche che tu lo faccia con le tue forze, con le tue parole e nei tuoi sforzi, nel tuo affanno. Lui vuole che che tu possa allearti a Lui in quello che è la sua ricerca, perché Lui sta cercando le persone, perché Lui sta bussando ai cuori, perché Lui è il pastore che cerca la perduta. Però ci chiama ad allearci con Lui, e la preghiera è il mezzo di alleanza. Torno a ripetere, questo messaggio è per ognuno di noi, per tutti coloro che mi stanno ascoltando. Questo messaggio è per te nel proiettarti a quest'estate per darti un obiettivo. E la mia domanda a te: che obiettivo hai per quest'estate? Che obiettivo hai per quest'estate? Riposare, divertirti, svagarti, vedere bei posti, tornare a casa più stanco di prima, alla routine quotidiana? Oppure riscattare questo tempo, riconoscere che sei un missionario, che Dio ti chiama ambasciatore suo, e vivere una gioia più grande, quella che Dario e Gabriella descrivevano, la gioia che c'è nei cieli quando viene qualcuno a salvezza, la gioia di annunciare, perché non è solo la gioia che c'è nel vedere una persona che si salva, ma c'è gioia nel condividere, nel mettere l'altro prima di noi stessi. Gioisci nel condividere l'Evangelo. Questo è forse l'appello, l'invito che vale per la maggior parte di noi. E allora, qual è l'obiettivo tuo per quest'estate? Che preghiera farai ora alla luce di questo messaggio? Quanto a rischio ti vuoi mettere nel dire: Signore, serviti di me, fammi essere luce dovunque sarò, perché Dio ti ha portato in questo luogo proprio per questa ragione. O forse ti ha portato in questo luogo per farti riconoscere che sei perso, che sei perduto. E sai come lo sai che sei perduto? È molto semplice. Lo sai perché la tua vita non è completamente arresa a Cristo. Le tue giornate non sono guidate da Lui, non sono guidate da quello che Lui dice, da quello che Lui vuole, da quello che Lui detta, da come Lui ti vuole portare a scegliere e a muoverti. Sei perduto nel momento in cui sei in autonomia, in indipendenza, e fai le tue scelte guidate dalla tua carne, guidate dai tuoi sentimenti, dalle tue emozioni, dal tuo cuore o da quello che gli altri ti invitano a fare. E sei perduto fra perduti, perduti che ti trascinano nella perdizione, e ti perdi sempre di più, perché il peccato crea una voragine sempre più grossa. E lo smarrimento diventa sempre maggiore, e quel vuoto diventa incolmabile, perché c'è solo uno che lo può colmare, Cristo. Ma Lui non vuole te parzialmente, non può averti parzialmente. Lui è venuto per cercarti e afferrarti completamente. E se tu sei disposto a lasciarti afferrare completamente, la tua vita sarà trasformata e potrai riconoscere: non sono più perso. Non sono più senza orientamento, ho orientamento. La mia vita ha un senso, e non è il senso che gli ho dato io, e non è il senso che gli hanno dato gli altri, è il senso che Cristo attribuisce alla mia esistenza terrena. E io vivo per Cristo, io muoio a me stesso, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Gesù ti sta cercando. Ti ha portato qui perché ti vuole afferrare completamente. E io voglio pregare per i perduti, per i peccatori, per coloro che forse vedono questo video, si ritrovano online ad ascoltare queste parole. Dovunque tu sei, che sia qui in sala o a casa tua o in viaggio, il Signore ti sta cercando. Lui ti ama, tu hai valore per Lui, e Lui ti vuole per sé, perché tu sei sua pecora. Arrendi il tuo cuore, arrendi la tua vita a Lui completamente, e Lui ne farà una cosa nuova. Amen. Chiudiamo i nostri occhi. Un'estate per te, Cristo, anche questa stagione per te. Un'estate. un'estate per te, un autunno per te, un inverno per te, una primavera per te, e poi ancora un'estate per te, è un autunno per te, un inverno per te, una primavera per te, e ancora, vogliamo vivere per te ogni stagione, ogni mese, ogni giorno della nostra vita. Se lo Spirito Santo questa mattina ha messo un peso nel tuo cuore, nel darti un obiettivo per quest'estate, o nel tuo cuore è nato un desiderio di riscattare l'andamento di quest'estate rispetto a come è cominciata e come l'hai vissuta finora, e vuoi dire: Signore, ora rimetto tutto nelle tue mani, voglio essere ambasciatore tuo, voglio essere luce tua, voglio vivere la gioia più completa, che non sta in una bella vacanza ma sta nel servire te e fare la tua volontà. Se senti questo nel cuore, ti chiedo di alzare le tue mani. Voglio pregare per tutti coloro a cui il Signore ha parlato questa mattina per riscattare il tempo che ti sta davanti, l'estate che ti sta davanti. Grazie Gesù per queste mani che si alzano. Grazie per questi cuori che si arrendono, e noi ti chiediamo: sia fatta la tua volontà, siano altre persone salvate per mezzo nostro. Vogliamo essere luce, vogliamo essere sale, vogliamo abbattere la timidezza e la vergogna, vogliamo dichiarare che noi non ci vergogniamo dell'Evangelo, perché è la salvezza per chiunque crede. Guidaci, Padre, che sia un'estate guidata da te, di gloria in gloria. Serviti di noi in spiaggia, serviti di noi in piazza, serviti di noi al ristorante, serviti di noi in famiglia, serviti di noi al lavoro, serviti di noi in ogni compagnia, serviti di noi sui social, serviti nel nostro condominio, nel nostro vicinato, serviti di noi, Padre. Vogliamo essere luce e annunciare la verità dell'Evangelo. Amen. E mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, se in questo momento vuoi arrendere la tua vita a Gesù, è una scelta tra te e Lui, non è una scelta che fai nei miei confronti o per le mie parole, ma le fai perché io ti ho trasmesso delle parole che sono di Dio, vengono dalla Sua parola. E quindi è a Lui che devi dar conto ed è a Lui che devi tornare. Il Signore ti sta cercando, quindi arrendi il tuo cuore a Lui. Arrendi la tua vita a Lui, e se questo è il tuo desiderio, mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, dici: sì, io voglio tornare, io voglio essere quella perduta, pecora perduta, ritrovata e riportata all'ovile, riportata a casa. Io voglio essere quel figlio smarrito nelle scelte mondane, carnali, emotive, per tornare alla casa di papà, del padre buono che ha il meglio per me. Se tu sei quella persona, ti chiedo di alzare la tua mano, di farlo ora, davanti a Dio, e voglio pregare per chi si arrende, dice: io non voglio essere più perduto o perduta, io voglio essere ritrovato o ritrovata. Alleluia, grazie per queste mani che si alzano, alleluia, alleluia. Anche da casa, se questo è ciò che senti che il Signore ti sta chiedendo di fare, alza la tua mano in questo momento. È sicuramente Lui che ti sta chiedendo di fare questo passo, e c'è qualcun altro che non vuole che tu faccia questo passo perché ti vuole ancora tenere imprigionato, imprigionata. Non accettare questa prigione, non accettare questa prigione vestita da libertà, perché non è libertà, è smarrimento, è morte. Voglio pregarti, Padre, per chi ha alzato la propria mano e sta rendendo la propria vita a te in questo momento. Ti prego, vieni e porta restaurazione. Io ti prego che tu possa perdonare ogni peccato e afferrare i tuoi figli per riportarli a casa, in un posto sicuro, in un posto di pace, in un posto di restaurazione, di vita piena, in un posto dove lasciano l'autonomia, l'indipendenza da te. e afferrano la visione di vita che tu hai per loro. Io prego, Padre, per ogni persona che ha reso il proprio cuore a te in questo momento e sta combattendo per dirti: prendi tutta la mia vita. Io ti prego, aiutali in questa resa, aiutali tu stesso, afferrali tu come hai afferrato Pietro che sprofondava nelle acque. Prendili per mano e accompagnali in salvo, perché tu sei venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. E io ti prego di farlo in questo momento, nel nome tuo santo, Gesù. Amen. Alleluia. Vogliamo continuare a pregare. Vogliamo adorare il Signore. Mantieni gli occhi chiusi. Se hai libertà, alza le tue mani. Prega, intercedi. Prega per chi ha fatto decisioni o prega per te per la decisione fatta. Viviamo ancora un tempo di preghiera e adorazione insieme.